Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. We must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding. We are going to begin to act beginning today. Ma di chi è questa voce? Si potrebbe dire all'altezza del febbraio 2010, che è un po' una specie, senza sembrare sacrileghi, di voce di Dio, perché in questa apertura della sesta puntata, del sesto appuntamento di Anni 10, vogliamo parlare di voci, per la precisione di voci della politica americana, ma soprattutto intese come stile, perché si sta avvicinando un appuntamento assai importante, quello con il voto del novembre 2010 del medio termine. Già si profilano in realtà all'orizzonte i posizionamenti per la corsa elettorale per la Casa Bianca del 2012, e soprattutto sta andando in scena un grande spettacolo mediatico in America in queste settimane, che è lo spettacolo dell'America conservatrice, della destra americana, dell'America repubblicana, della Right America, come piace chiamarla da quelle parti, che cerca la propria nuova voce, una nuova voce per un nuovo decennio, per comunicare, raccontare, rappresentarsi, descriversi e in un certo senso anche per mettere un argine a quell'altra nuova America, quella che è andata in scena nel 2008, ma già sembra malconcia all'altezza del 2010, visto gli indici di non solo del presidente Barack Obama, ma di tante cose che attengono a quel tanto sospirato change. E nel weekend scorso è andato in scena a Washington un appuntamento molto importante. Si chiama CPA, il Conservative Political Action Conference, ovvero un convegno, caucus, chiamate un po' come volete, un grande ritrovo, un grande incontro di tutta la parte destra, di tutta la parte centrodestra, di tutta la parte libertaria, ma anche grassroots, ma anche Tea Party, insomma tutto quello che si muove oltre Obama in America, per contarsi, confrontarsi, discutere, dibattere, ma soprattutto per ascoltarsi, perché qui la questione è trovare delle voci nuove, delle voci nuove che funzionino e che naturalmente diano luogo a una leadership che porti al successo. Allora, sono tante le voci che adesso proviamo ad ascoltare e di volta in volta cerchiamo anche un po' di capire quanto valgono, no, in uno scenario futuribile della America conservatrice. To me it's very important that we understand what conservatism means. To me, to be a conservative means to conserve the good parts of America and to conserve our Constitution. Quello che si impegna in questa definizione di che cosa voglia dire essere conservatori in America, conservare la parte buona dell'America, la parte buona della Costituzione, è stato un po' il trionfatore di questo convegno. Si chiama Ron Paul, ha 74 anni e quindi prospettive elettorali assai limitate, ha giocato anche un certo ruolo da battitore libero, da guastatore se volete, nel 2008, ha vinto quel sondaggio che non ha un gran significato, lo chiamano straw poll, no? È una specie di indicazione di preferenza che al termine del convegno i 10.000 convenuti hanno espresso, in realtà poi sono andati a votare soltanto in 3.000 e fra questi 3.000 più del 30% ha detto che il loro personaggio preferito era Ron Paul, ma la sua voce, per quanto contraddistinta da una vera indipendenza naturale, no? Che gli appartiene, che gli è organica, però così non ha quel suono, no? Quel suono fresco della novità. Wow, what a wonderful, wonderful reception. I'm greatly honored to be here with all of you. It's one of my first times out in a public event since the election. And as you know, my name is Scott Brown and I'm the newly elected Questo è un novellino, si è appena presentato, ha detto: sono Scott Brown, sono stato appena eletto al Senato del Massachusetts, ha scalzato niente meno che il trapassato Kennedy, ma insomma una dinastia democratica da quel seggio al Senato è stata così sradicata da parte di un uomo nuovo. Questo è un uomo nuovo da tenere molto d'occhio, prima di tutto perché appena debuttato in Senato ha dimostrato una capacità bipartisan interessante, di rottura in attesa, e poi perché ha la capacità di avere il nuovo nella sua voce, di avere il popolare nella sua voce, c'ha anche un po' di accento americano sano, è un ragazzone, è uno che secondo me sul breve medio termine io terrei molto d'occhio. There is one man in particular we all know, who certainly has taught me what it means to have the courage of your convictions. You know who I'm talking about. Questa è una figlia d'arte, si chiama Liz Cheney, sta presentando papà che sta per arrivare sul palco, il vicepresidente 69enne malconcio Dick Cheney, vittima recentemente di un attacco, un ennesimo attacco di cuore. La famiglia Cheney in un certo senso è veramente il vecchio che avanza, nel senso che poi in un certo senso c'è sempre voglia, no? C'è sempre bisogno, richiesta, nostalgia, vogliamo dire, di un'era di Bush che in fondo è appena tramontata, no? Con quei sapori neocon che Dick Cheney sicuramente sa rievocare. A welcome like that's almost enough to want to make me run for office. But I'm not gonna do it. esclude di essere della partita, ha altre cose da fare, prima di tutto curare la sua salute, e poi insomma ci sono gli astri nascenti, quelli che veramente stanno mettendo, no, immettendo nel linguaggio politico americano un tono nuovo, un timbro nuovo, una parola nuova, una parola che io direi tutto sommato si può condensare in televisione. It is such an honor to be here, it really is. Last year I was in my car listening to Rush Limbaugh give the... Questo è Glenn Beck, è stato il più applaudito in assoluto. Lui di mestiere alle 5 del pomeriggio sulla Fox fa un programma di rottura, provocazione e casino televisivo, anche se poi vende libri, si fa pagare per le interviste, per le conference, insomma è un personaggio mediatico a tutti gli effetti. La realtà è che in questo grande caotico ridisegno dell'America conservatrice sta assumendo una valenza politica che è proprio anti-obamiana, perché è anti retorica, anti-oratoria, anti anche aristocrazia del pensiero, per quello che è stato incarnato da Barack Obama nel corso della sua campagna elettorale. Però poi, per concludere, c'è il volto nuovo vero che è emerso da questo convegno dell'America conservatrice a Washington, anche perché questo nome potrebbe sembrare la formula giusta. You know, as I reflect on this campaign, not to mention all the opportunities that I've had in my life, it often reminds me of my grandfather was an enormous influence on me growing up. Si chiama Marco Rubio, viene dalla Florida, il nome è di evidente estrazione ispanica, è bello, intelligente, capace, per ora sempre vincente, e contiene, no, quella cifra del nuovo che veramente vuole l'America conservatrice condensare in una propria candidatura per dimostrare di essere capace di scavalcare, no, di andare oltre quello che nel 2008 i democratici hanno fatto con Barack Obama. E poi, no, si doveva cercare la particolarità, no, la novità veramente immessa nel personaggio da lanciare, ecco, l'ispanico, l'uomo ispanico capace di equilibri e di sguardo al futuro, ma anche capace di pilotare una grande presentabilità, potrebbe essere quello giusto. Naturalmente tra qualche tempo cominceremo a scommetterci sopra. Pai, afasta di me esse cálice. Pai, afasta di me esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja a vida um fato consumado, cálice, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice, cálice, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Pai, cálice, cálice. Quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. Anni 10. Parole. Beh, ormai avrete capito che quando, parlando di parole, scusate il gioco di parole, ma si sente poi una musica, vuol dire che queste parole parlano di musica, ed è quanto accade con un genere letterario, peraltro, che è molto frequentato qui agli anni 10, anche perché sta dando dei frutti, dei prodotti di particolare interesse in questo periodo, ovvero le biografie musicali. Ne è uscita una con gran pompa e grande interesse tutto attorno, dedicata alla titolare della voce che ascoltate qua sotto, ovvero Nina Simone. Si chiama Principessa Nera, Princess Noir, il tumultuoso regno di Nina Simone è il sottotitolo. L'autrice si chiama Nadine Codas ed è una biografia che ha la pretesa di essere quella definitiva, quella finale su questa grande controversa artista, cantante, musicista, pianista, dopo che lei stessa peraltro aveva scritto una autobiografia negli anni 90 intitolata a Put a Spell on You, che però poi era stata generalmente giudicata inaffidabile, piena di fantasie, cose inesatte, cose inventate, insomma non l'aveva raccontata esattamente giusta. Nina Simone è una artista di importanza centrale nella scena americana del secondo dopoguerra. Arriva prestissimo, nei primissimi anni 60, a cavallo fra la fine degli anni 50 e gli anni 60, alla musica attiva, alla produzione vera e propria, e viene lanciata nel mondo della cultura americana in modo straordinario, perché addirittura un grande poeta laureato americano come Langston Hughes a parlare di questa giovane interprete, lo fa in modo travolgente dicendo: è così strana, mi ricorda Jean Genet, al tempo stesso Bertolt Brecht, mi ricorda Billie Holiday, mi ricorda San Francesco e mi ricorda John Donne, insomma una creatura certamente magica, che immediatamente attira l'attenzione dei grandi club come il Vanguard del Village, dei discografici, dei critici più ricercati. In realtà Nina Simone era una che si era da subito presa molto sul serio, no? Artisticamente si considerava lei stessa una caposcuola, aveva tentato la carriera del pianismo classico, quando non c'era riuscita aveva prima di tutto cambiato nome, il suo vero nome era Eunice Waymon, della North Carolina, aveva preso questo nome d'arte di Nina Simone, era andata a New York e aveva sfondato molto presto, anche perché si era immediatamente imposta all'attenzione degli intellettuali neri e alla sua volta aveva voluto in un certo senso assumere un ruolo attivo in quella protesta razziale che in quel momento conosceva i suoi momenti più caldi e più intensi. Aveva scritto addirittura una canzone che era diventata rapidamente un vero e proprio inno della protesta degli afroamericani per i fatti dell'Alabama, per i fatti del Sud. Si chiamava Mississippi Goddam, Mississippi maledetto. Sentite. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Questa era un po' la sintesi della canzone, no? Alabama got me upset. L'Alabama mi fa arrabbiare per quello che succede da quelle parti. Tennessee made me lose my rest. Il Tennessee mi fa perdere il riposo, il sonno. Ma quanto per quello che riguarda il maledetto Mississippi, sapete tutti che cosa sta succedendo. Un inno. 1963, la giovanissima Nina Simone è già una star assoluta e sostiene la biografa in questione, autrice di questa Princess Noir, principessa nera, che in realtà già lì in un certo senso scollina, no, il talento di Nina Simone, ma soprattutto scollina la condizione psichica di Nina Simone, che si avvia poi progressivamente verso un tunnel che con il passare degli anni diventa sempre più oscuro. Più di metà del libro è in realtà dedicato alla descrizione della lunga caduta di Nina Simone, la lunga caduta nella schizofrenia, ma anche nella quasi povertà, nella sua incapacità di relazionarsi in sostanza con il suo ambiente, con i suoi fan, con i suoi colleghi, diciamo anche con il mondo, fino alla morte. Anche questa accaduta peraltro in circostanze piuttosto misteriose, a Parigi, dove per diversi anni si rifugia dopo che la scena musicale americana in un certo senso decide, no, di fare a meno di lei. È una biografia bella, intensa, significativa, soprattutto è il racconto di come la genialità, nel caso di Nina Simone, arrivata prestissimo, no? Pensate che a 2 anni suonava l'organo da chiesa. Io non so come si faccia a 2 anni suonare l'organo a chiesa, ma i testimoni lo raccontano. Possa però poi trasformarsi in un certo senso in un terribile peso da portare sulle spalle. Non a caso l'epigrafe, la frase chiave in un certo senso di questo libro, è proprio una frase pronunciata da Nina Simone, che dice: il talento è un peso, non è una gioia. Nina Simone, una bella biografia che la riguarda, e una segnalazione vi vogliamo fare: se scrivere, no, è davvero un vostro interesse scrivere magari di quelli che scrivono, come accade in questo articolo, sondaggio, inchiesta interessantissimo, andatelo a cercare sul sito del quotidiano inglese The Guardian, è sterminato, quindi ve ne farò semplicemente una breve sintesi. Parte da un'idea, da uno spunto del grande scrittore di gialli, neri, action americano, si chiama Elmore Leonard, che ha steso il suo decalogo per scrivere la fiction, le 10 regole per scrivere la fiction. Il Guardian ha pensato bene di chiedere a tanti altri scrittori le proprie regole, no? E ne sono uscite fuori cose molto interessanti, indicazioni anche molto pragmatiche. Adesso vi do qualche accenno, poi potete completare da voi il lavoro, ma vedrete che ci sono delle curiosità. Dunque, partiamo proprio da Elmore Leonard, che dà il suo decalogo. Il suo primo comandamento è usare avverbi è un peccato mortale. Secondo comandamento, evitate i prologhi, possono soltanto annoiare. Terzo, non usate mai un verbo diverso dalla parola dice, per portare avanti un dialogo. John dice, o John disse, non John mormorò, sussurrò, no, tutte quelle cosine più ricercate. Non usate mai, nuovo comandamento, un avverbio per dare peso alla parola dice. Dice e basta, non dice in modo preoccupato, mi manca l'avverbio, animatamente, si dice animatamente. Ancora, tenete sotto controllo i punti esclamativi. Ancora, non usate mai la parola improvvisamente la notte scorsa e via discorrendo. State bene attenti alle espressioni regionali e dialettali, contenetele, evitate dettagliate descrizioni dei personaggi se non siete Steinbeck o se non siete all'altezza. Dice che Hemingway, quando una ragazza entra in scena in una famosa scena delle colline come grandi elefanti bianchi, la descrive così: poggiò il suo cappello sul tavolo. Vediamo qualcun altro. Margaret Atwood dà i suoi consigli, dice portatevi una matita per scrivere sugli aeroplani, le penne perdono. Poi dice, però anche le matite tendono a rompersi, quindi il vero consiglio è portatevi due matite. Poi dice, occhio perché se tutte e due le matite si rompono dovrete arrangiarvi con oggetti di fortuna per rifare loro la punta. Poi dice, portatevi qualcosa su cui scrivere, la carta è consigliabile, però dice che anche pezzi di legno o la vostra mano possono sostituirla. Se vi portate il computer, portatevi anche una cartina dove salvare. Fate esercizi per la schiena, il dolore distrae. E soprattutto non siate noiosi. Roddy Doyle, consigli Roddy Doyle. Non piazzate una fotografia del vostro autore preferito sulla scrivania, specialmente se l'autore alla fine si è suicidato. Fino a pagina 50 andate dritti, poi calmatevi, rilassatevi e cominciate a ragionare. Trovate un nome per il vostro libro il più presto possibile, non chiamatelo il mio libro. Nascondete un dizionario, sinonimi contrari, dietro il frigorifero, vi deve costare molta fatica a trovarlo. E poi siate disposti a cambiare idea, le buone idee spesso assassinano, ammazzano quelle che sembravano abbastanza buone. Poi ce ne sono tanti altri, guardate, è veramente uno spasso. C'è Richard Ford che consiglia di non avere figli se volete diventare degli scrittori, c'è Annie Proulx che dice di andare piano, che tutto deve essere composto e ordinato. Poi c'è Philip Pullman che dice che la sua unica regola è non rispondere mai a referendum di questo genere che lo distraggono dal suo vero lavoro di scrittura. Leggetevi su Guardian queste regole, leggetevi pure se vi capita il romanzo che ha scritto un cantautore, no? Poi tutto torna qui ad anni 10, un cantautore italiano raccontando la sua vita di cantautore, ma anche la sua vita di italiano e anche la sua vita di futuro scrittore. Lui è Sergio Caputo, il libro si chiama Disperatamente e in ritardo cane, pubblicato da Mondadori, è un reality show libro, come lo chiama lui, fra California, Italia, anni 80 e 2010. Sergio Caputo. Anni 10, suoni. Insomma, la domanda è: c'è vita dopo Sanremo? La risposta che diamo, la anticipiamo subito, è sì, per fortuna, c'è vita dopo Sanremo e soprattutto c'è vita nella musica italiana, perché qui di musica si parla, c'è vita anche dopo quella connessione che ha un'aria così francamente soffocante, perché sembra che fatta questa e sono chiusi tutti gli spazi, non se ne esce, la connessione tra Sanremo e i talent show, no? Se si chiude il cerchio tra Amici, X Factor, Sanremo e le programmazioni estive, sembrerebbe non esserci più un buco attraverso il quale infilarsi per arrivare al pubblico. Invece i buchi ci sono tantissimi, sono del tutto insondabili, anzi introvabili, li trovano quelli che hanno l'età giusta. A noi non resta che ascoltare, però dire guardate che c'è anche altro, no? E si può battere altre strade. È quello che vogliamo provare a indicarvi in questo spazio musicale di oggi, di anni 10. Quelli che ascoltate qua sotto, per esempio, sono i primi in un quartetto di nuovi gruppi nati per caso, ma lontano dai talent show, nella scena italiana, e che può valere la pena ascoltare. Questi vengono da Piacenza, si chiamano Copenhagen Store, ovvero il negozio di Copenaghen. Tra l'altro sono prodotti da Giacomo Fiorenza, che nella scena musicale italiana è una specie di mago Merlino. Adesso li ascoltiamo per bene, Copenhagen Store. Ci sono un po' di echi di musica islandese, no? I Mom, per esempio, o di cose più ricercate, più aperte, anche la musica inglese ed americana, in questi Copenhagen Store. Quindi sosteniamo, no, la nostra piccola crociata per dirvi guardate, abbiate la curiosità di guardare oltre i talent show, abbiate la curiosità di guardare nelle etichette indipendenti italiane, così tagliate fuori da questi scenari che invece sembrano connessi, quasi rocciosi. Vi potrete accorgere, scoprire tante di queste realtà. Per esempio, un'altra porta il nome di Criminal Jokers, vengono da Pisa e sono un trio, e da bravo trio hanno per anni seguito le tracce di un grande trio americano della storia del pop che si chiamava i Violent Femme. Poi sono arrivati a crearsi, no, una personalità propria, rilasciano anche dichiarazioni divertenti, dicono che MySpace in realtà è già il passato, bisogna andare a suonare per strada per farsi conoscere, per acquistare un pubblico. Questi sono Criminal Jokers. Sweet blonde, don't go. With those eyes you'll catch me. I drop him strong. But you are killing me. Keep it in mind. I thought I was out. un po' di vita musicale anche nei suoni italiani senza telecamere. Una volta tanto, se ce la passate, anzi no, per radio, come si usava sanamente una volta, poi appunto dicono che anche MySpace forse potrebbe aver fatto il suo tempo, è troppo contaminato, sostengono questi Criminal Jokers. Ve li state segnando i nomi, poi li troverete comunque sulla pagina Facebook del nostro programma, che si chiama Anni 10, la pagina fan si chiama Anni 10 Radio 24, tutto quello che vi proponiamo poi è disponibile sotto forma di link, nomi, liste e quant'altro su queste pagine e naturalmente sul sito di Radio 24 nella pagina del programma. Arriviamo ora nella capitale, dove c'è un quintetto che si chiama Jacqueries. Jacqueries citano influenze indie americane, ma anche una simpatia per quel trash italiano anni 80, no? Dagli Schiantos in giù, Lino e Misto Territa e naturalmente i Santissimi Elio e le Storie Tese. Suonano parecchi concerti in città, hanno un disco in uscita, questi sono i Jacqueries. Stop. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. I'll keep my cool, but I'm fending. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and the stumble. Insomma, ve li state godendo, ve li state segnando, vi stanno piacendo questi gruppi italiani, come si diceva una volta, underground, indipendenti, ma insomma questa musica che non è nel circolo mainstream. Del resto questa è la funzione di questo programma, farvi venire delle curiosità. Criminal Jokers, abbiamo sentito, Copenhagen Store, i Jacqueries, dove li trovate questi dischi? Dove li trovate soprattutto questi gruppi che suonano dal vivo? Ma naturalmente soprattutto nel circuito dei club, che magari se ai tempi di quando noi eravamo bambini fosse stato così ricco di posti, di luoghi, di numeri, proprio di quantità di posti per suonare come è oggi, perché in realtà i posti ci sono, il problema è che c'è anche la televisione e qui ne nasce, diciamo, la provocazione finale, che sarebbe poi in fondo questa: ma perché la televisione, che si vuole bene o male impadronire, no, del serbatoio, del patrimonio, del portafoglio della musica pop, rock, della generazione in corso, chiama sempre a sé nei propri studi, con le luci, i lustrini, i presentatori, i costumi, gli autori, i gruppi, anche quelli che potrebbero magari essere invece colti meglio in spazi loro naturali, e non li va mai a cercare, perché la televisione non alza, no, un po' questo sedere di pietra che la contraddistingue, per andare magari a vedere dove sono questi club, dove sono questi gruppi e dove in fondo forse corre, no, anche il sangue, la vita vera della musica italiana del 2010, musica italiana che è anche molto rivolta su se stessa, si ricorda di se stessa. Se è vero che un trio bresciano che si chiama The Records va a cercare una vecchia traccia italiana a cui siamo tutti un po' affezionati per riscoprirla, rinciderla, farla risentire in giro, no? Era una volta Giuni Russo, adesso sono i Records e questa è Un'estate al mare. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi stoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare. freddo, si bruciavano le gomme d'automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le figure. Give you a briefing about the institution? All I know is it's a mental hospital. For the criminally insane. We take only the most dangerous, damaged patients. Ones no other hospital can manage. Il 5 marzo potremo cominciare a vedere anche in Italia Shutter Island, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio nel ruolo di protagonista. Ma nel frattempo negli Stati Uniti attorno a questo film si stanno muovendo parecchie cose e abbiamo pensato bene di annotarle, sottoporle alla vostra attenzione, senza bisogno di fare una critica, una recensione vera e propria del film, che magari spetta ad altri, ma per capire mediaticamente un po' che cosa sta succedendo intorno a Martin Scorsese proprio in questi mesi. La nostra sensazione è che si sia in presenza di una vera e propria santificazione, no, del grande regista di origini italiane, che questo Shutter Island sia diventato a tutti gli effetti un evento per chi ama il cinema americano in America, ma anche al di fuori dei confini americani, perché in un certo senso sposta definitivamente il ruolo di Scorsese da autore, no? da grande autore del cinema americano degli ultimi 30 anni a vero e proprio classico americano. Entra a far parte di quella schiatta degli American Classic che passano attraverso i nomi di Orson Welles, di John Ford, di John Huston. A questo punto Scorsese sembra avere tutte le carte in regola per essere, per fortuna in vita, sano, vivo, vegeto e attivo, per essere agganciato a questo treno di intoccabili. Ed è un po' questo l'atmosfera che circonda dal punto di vista della critica americana questo Shutter Island, che poi è un film scurissimo, nerissimo, giallissimo, misteriosissimo, carico di segreti, doppie, triple, quadruple letture. Sono stati citati Stanley Kubrick, lo Stanley Kubrick di Shining dare dei paragoni. Sono stati citati grandi giallisti, ma anche al tempo stesso le provocazioni del codice Da Vinci, no? Gli enigmi, i labirinti, le cose che sembrano di un tipo, ma invece sono tutt'altro, i doppi i giochi, le doppie personalità, e poi la capacità di agire davvero Pigmalione che Martin Scorsese sta continuando ad esercitare rispetto a Leonardo DiCaprio, lo guida ormai da diversi film, è il protagonista, il suo protagonista prediletto, è il suo attore, ma pensate come, no, lo ha pilotato appunto abilmente fuori dalle acque in cui navigava il Titanic, no? Come è riuscito a portarlo lontano da quel ruolo che sembrava poteva configurarsi come un vero e proprio cul-de-sac. Invece adesso Leonardo DiCaprio è tutt'altro, insomma è stato The Aviator, è stato The Departed, ma adesso è a tutti gli effetti il volto del cinema americano d'azione, ma carico di significati, carico di rappresentatività anche nei confronti dell'America d'oggi, che è meglio sia meglio funzioni, meglio sia tra quanti sono in circolazione. Si parla di debiti di Martin Scorsese verso lo stesso cinema americano, viene citato Fight Club come un film che ha ispirato questo Shutter Island, c'è questa ambientazione anni 50 particolarmente affascinante, e poi ci sono i quattrini che stanno salutando allegramente il debutto americano di Shutter Island, sono tantissimi, non aveva mai incassato tanto Scorsese all'esordio dei propri film, 40 milioni in tre giorni, nei primi tre giorni. Lo stesso DiCaprio non aveva mai incassato tanto nel debutto di un suo film, neanche con Titanic aveva incassato così tanti quattrini. La santificazione quindi di Martin Scorsese è in atto, tardiva ma definitiva nel cinema americano. Gli Oscar vedranno nella edizione successiva, no, di salutare questo film, perché per questa mandata è fuori dai tempi previsti. Di fatto Martin Scorsese è diventato il regista laureato del cinema americano. A little prince in outer space can catch a shooting star and sail away. Perhaps one day he'll come your way. Salut, my friends, come tale-vous? Ecco, aspettavamo questa vocina perché ci piace moltissimo. È tratta da, in questo francese inglese un po' maccheronico, è tratta dalla versione cartoon di uno di quei libri che viene considerato intoccabile dal cinema perché non sanno bene come farlo, non sanno bene come procedere alla trasposizione. Infatti la televisione, che in questi casi ha meno orpelli, no, è più diretta, va più dritta allo scopo, ci ha provato, e del Piccolo Principe, perché del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry stiamo parlando, ma invece il cinema, quando ci ha provato, ha fatto dei disastri memorabili. Ci sono un paio di tentativi, ma per fortuna caduti nel dimenticatoio. Uno ricordo, credo anni 70, fine anni 70, con Gene Wilder. Invece adesso è partita una nuova produzione a cartoni animati del Piccolo Principe e siamo molto curiosi di vedere che cosa metteranno insieme, prima di tutto perché la produzione è francese, quindi esiste, come dire, un interesse nazionale, no, in questa edizione a cartoni del grande romanzo, un po' perché è stata scelta la chiave 3D per realizzare il progetto, quindi nuova tecnologia, nuovo sistema di visione, ma tanti problemi da risolvere. Cosa fanno un Piccolo Principe in stile Pixar? Ci vengono i brividi, ci corrono i brividi lungo la schiena. Invece magari il 3D, no, in questo caso potrebbe essere usato per mostrare il grande vuoto, no, quel grande vuoto di angoscia e malinconia all'interno del quale il Piccolo Principe con la sua marsina si muove. Comunque la produzione è in atto, quindi nella prossima stagione saremo tutti curiosi di vedere come si muove questo eterno Piccolo Principe dimensione tridimensionale. For most American teens, high school is about having fun. But for these six girls, high school will not be the same. Mom! What? I think my water just broke. un po' di scratch, un po' di voti, di voci giovanili. Siamo su MTV, siamo dentro a un programma che è al centro del dibattito addirittura sociologico, addirittura dei grandi quotidiani americani in questi giorni, un programma televisivo appunto di MTV che si chiama 16 and Pregnant, che vuol dire 16 anni e incinta, no? un incubo ricorrente nella società americana, dal momento che dicono i sondaggi e le inchieste che è tornato a crescere il numero di ragazze adolescenti che restano incinta e che devono affrontare tutte le problematiche legate a una gravidanza. È un progetto molto particolare quello prodotto da MTV americana, visibile anche in Italia nella prima stagione, mentre negli Stati Uniti sta andando la seconda stagione, mentre negli Stati Uniti sta andando in onda anche uno spin-off, ovvero un programma nato, no, da una costola di 16 and Pregnant, che si chiama Teen Mom, le mamme teenager, che in un certo senso affronta il dopo, no? 16 and Pregnant affronta la gravidanza, l'avvicinamento a questa situazione così strana, inconsueta, inattesa, sicuramente prematura. L'altro è il programma che prova a vedere che succede dopo che, come dire, le creature sono venute al mondo e si tratta di cominciare a crescerle. C'è molta, come dicevo, agitazione attorno a questo programma, perché il programma è stato realizzato come un progetto. L'idea era che funzionasse da deterrente, che scoraggiasse naturalmente le ragazze troppo giovani ad avere figli quando si hanno 14-15 anni, e tutto ciò si è tentato di farli con una formula di reality show, ovvero seguendo delle ragazze che veramente stanno vivendo questa esperienza, rappresentandone i drammi, le frizioni all'interno della famiglia, le frizioni frequentissime, sempre disastrose, con i loro boyfriend, con i loro fidanzati, che puntualmente si dimostrano del tutto inadeguati alla situazione, ma potrebbe essere diversamente, ma è difficile. E tutto ciò ci interessa osservarlo, dirlo e sottolinearlo, perché all'origine di un prodotto di questo genere c'è quindi un ripensamento di un genere, quello dei reality show, e questo ci piace perché modifica, no, quello che ormai è diventato un luogo comune, un tormentone, no? I reality show, la rovina dello spettacolo televisivo, il modo di traviare intere generazioni mostrando loro percorsi al successo improbabili, miliardari che raccontano come si fa, o la vita di star magari un po' corrotti. No, qui il progetto è completamente diverso. Qua si prova a utilizzare il formato della realtà e del racconto della realtà in chiave documentaria, ma con lo stile del reality show, quindi con quelle riprese casuali, ravvicinate, intime, vicine, registrando confessioni, punti di vista, incontri inattesi, la vita di queste ragazze, e quindi un reality show che diventa strumento del sociale, no? Pensiamo a tanti altri problemi, pensiamo al problema della droga, no? Il discorso potrebbe avviarsi anche su queste strade, ma diventare anche pericoloso, perché poi ci sono dei sondaggi che dicono che in realtà la reazione dei giovani alla visione di questi programmi non è così positiva, l'esempio non viene raccolto. Pare che invece venga raccolto intensamente se a restare incinta, come al solito, è un personaggio di un telefilm, per esempio la ragazza di O.C. In quei casi allora sì, ci si spaventa e si decide che bisogna fare come lei, stare attenti. On the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101, California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. Quindi abbiamo chiuso con Scorsese, con un futuro piccolo principe e con questo programma che si chiama 16 and Pregnant. Ricordate che tutto ciò che viene segnalato agli anni 10 lo potete poi rintracciare attraverso le pagine di Facebook del nostro programma che si chiamano Anni 10 oppure Anni 10 Radio 24, dove vi offriamo i link necessari a risalire fino alla fonte. Potete anche scriverci alla mail che è anni10@radio24.it. In redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti, io sono Stefano Pistolini, vi aspetto fra 7 giorni a Anni 10.